Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 15 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.46, tramonterà alle 19.18, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino, i titoli. Il 13 settembre Vita nei campi ha compiuto 60 anni. Intervista con chi a Udine ha dato il via alle trasmissioni, il collega Claudio Coiuti. La passata di pomodoro non è solo una conserva, è una messa di ricordi della casa e cucina casalinga. Per la rubrica delle macchine agricoltura non si poteva non iniziare se non con l'aratro. La Ribolla Gialla, primo vino affrontato nella serie di analisi del sommelier. Istruzioni e raccomandazioni per chi si diletta nel far conserve in fatto di botulino. Per la rubrica delle piante da giardino, oggi di scena il Solanum sediocardium o ciliegia di Gerusalemme. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Il 13 settembre 1964 inizia l'avventura radiofonica di Vita nei campi, una trasmissione portata in Friuli Venezia Giulia dal collega Claudio Coiuti che c'era. Da dove arriva Vita nei campi? Arriva da Roma, dove esisteva la trasmissione Cascina le querce. La rubrica durava 50 minuti. E mi fu chiesto di trasformare la Cascina le querce in Vita nei campi del Friuli Venezia Giulia. Allora io dissi di sì, andai a Trieste al venerdì di ogni settimana, dove arrivava la bobina in bassa frequenza che mandava a Roma. Era una pizza di 50 minuti e dovevo trasformarla in meno di 30. Io tenevo le notizie più importanti in campo nazionale e poi inserivo tutte le notizie che interessavano il Friuli Venezia Giulia. 4 anni dopo è arrivata però Vita nei campi a Udine. Fu istituito il nucleo redazionale della RAI. Capo del nucleo era Isi Benini e cominciammo a imbastire questa rubrica regionale con delle rubriche all'interno. I primi collaboratori erano Hermes Battilana, che curava la trasmissione dei mercati, poi c'era la professoressa Valeria Cerroni, che curava la rubrica di economia domestica e le ricette, poi per quanto riguarda il vino, Claudio Fabbro, e poi cominciamo a introdurre nuovi collaboratori. 60 anni senza mai fermarsi, Vita nei campi non si è fermata neanche nei mesi terribili del terremoto e una volta non si fermava per tutto l'anno. Beh, non si fermava per tutto l'anno perché gli agricoltori una volta non andavano in ferie, però non si è mai fermata durante il terremoto, che durante il terremoto noi andavamo in onda in diretta. Qual è secondo te la ragione del successo e della longevità di questa trasmissione? Prima di tutto perché è una trasmissione che è fatta, scusate il termine, terra a terra. Poi dei collaboratori, dei vari collaboratori che erano persone ottime, tecnicamente validi, che conoscevano il mondo dei campi nella loro realtà. Un aneddoto, un ricordo, un qualcosa di indelebile nella tua memoria legato a Vita nei campi. Quando per la prima volta entrai in una stalla a Pasean di Prato, una stalla che aveva 80 o 90 mucche, io rimasi così e dissi: queste qui sono tutte mucche tue, al proprietario. Sì, sì, sì, sono tutte mie. Però un bel capitale, dopo i poveri agricoltori. E lui si mise a ridere e capì la battuta. Un'informazione di servizio per quanti ci chiedono notizie sulle sigle storiche della trasmissione. Sono musiche originali composte ed eseguite 60 anni fa dall'orchestra di musica leggera della RAI. All'epoca si faceva un po' tutto in casa. La passata di pomodoro, ne abbiamo parlato qualche puntata fa nella rubrica delle conserve. Oggi Angelo Floramo riprende l'argomento all'interno delle sue storie. Era proprio quello il profumo dell'estate, che finiva, inconfondibile, perché intenso, quasi acre, con un fondo dolciastro, però che ingolosiva. L'operazione si svolgeva per lo più in cantina, o comunque in un luogo riparato dall'eccessiva calura del giorno, anche perché esigeva che il fuoco rimanesse acceso per ore. Si trattasse di un vecchio spolerto, di un futuribile fornello a gas, il gajuf, poco importa. Dall'orto qualcuno aveva portato nei giorni precedenti secchiate stracolme di pomodori, cestelli di vimini, raccoglitori di plastica, mastelli e bacinelle. Tutto andava bene. Terrosi, ancora pregni di umori della zolla, erano stati irrorati di frescura sotto la pompa appena fuori. Ma non troppo, raccomandava qualcuno, altrimenti avrebbero perso il gusto, il sapore di buono. Erano gli ultimi della stagione, con ancora dentro la polpa tutto il sole d'agosto, che ormai declinava verso l'alito più fresco di settembre, mentre le prime piogge rendevano l'aria liquida e umida, specialmente verso sera. In casa erano le donne che di solito officiavano il rito, rimestando in continuazione il calderone, neanche fossero state le streghe delle favole. Ricordo pentolacce rosse, tegami con lo smalto bianco all'interno, dal culo annerito di fumo, e il rumore allegro e impertinente dei coperchi che non riuscivano a trattenere i vapori e ballavano con quell'accompagnamento improvvisato di ferraglia che regala sempre ai bambini una strana e incomprensibile allegria. Sui taglieri intanto si continuava a fare a pezzi il frutto maturo per gettarlo nel calderone che inevitabilmente trasudava brode, sempre più dense. Quelle piano colavano un po' dappertutto come dalla tavolozza di un pittore pasticcione ossessionato dal colore rosso, sfrigolando, cisando, se venivano a contatto con la piastra incandescente. E se al suo posto c'era il più moderno inadeguato fornello, andavano a rischio di spegnerlo con grande periglio di botto. Ricordo che mi facevano sedere sull'asse da stiro per contemplare al meglio quella festa coloratissima della raccolta, attorno alla quale tutti si affaccendavano, ciascuno con un compito preciso, per non intralciarsi troppo. Mano a mano che il magma si addensava, una mano sapiente lo raccoglieva con un coppo e lo metteva dentro i vasi di vetro allestiti alla bisogna. Anche quelli sarebbero stati fatti bollire nell'acqua per suggellarne la chiusura ermetica. Per cena la nonna avrebbe preparato i macarons, affogandoli dentro a quel primo sugo. Una consolazione al pensiero che da lì a poco saremmo dovuti tornare tutti a scuola. Con Stefano Bortolussi che ci cura la rubrica Macchine e Agricoltura, oggi parleremo di uno strumento fondamentale nella storia appunto dell'agricoltura, l'aratro. L'aratro è ormai da sempre, anche se un po' meno in questi ultimi anni, sinonimo di lavorare la terra. Catone, generale politico romano, nella sua opera De Agricultura, si chiedeva cosa significasse lavorare bene la terra e si rispondeva: primo arare, secondo arare, poi la lista continuava, ma l'aratura veniva per prima. Quando è stato inventato l'aratro? Non lo sappiamo con certezza. Gli archeologi hanno ritrovato le sue tracce, raffigurazioni e pare anche solchi fossili a partire dal 4-5 millennio a.C. Il più antico esemplare di aratro arrivato fino a noi ha circa 4.000 anni ed è stato ritrovato in Italia, in provincia di Brescia. È un aratro in legno, dove un ceppo ricavato da una parte del tronco portava il vomere sempre in legno ed un suo ramo fungeva da bure di traino. Questa tipologia di aratro è definita tipo Triptolemo, da un mitico personaggio della Grecia antica che aveva ricevuto dalla dea Demetra, la Cerere dei Latini, il dono dell'agricoltura. Sapete cosa significa Triptolemo? Colui che ara tre volte. Il vomere in legno è stato utilizzato fino alla soglia dell'età moderna, in quanto il ferro e poi l'acciaio costavano. Dopo l'anno 1000 è stato messo a punto l'aratro di tipo pesante, con vomere asimmetrico in metallo e dotato di un avantreno su ruote. Questa nuova tecnologia di aratro richiedeva di dover aggiogare almeno una coppia di buoi o cavalli. Gli animali da tiro furono per lunghi secoli una merce molto costosa da comprare, ma soprattutto da mantenere, e di conseguenza non così diffusa. Con la rivoluzione industriale sono arrivati gli aratri con il versoio ed anche la bure in acciaio. Nei primi decenni del 1800 in Toscana è stato studiato un nuovo tipo di versoio a forma elicoidale, l'aratro di Ridolfi, che permetteva di rivoltare la terra in un modo nuovo. Con il versoio elicoidale si è così arrivati ad aver definito tutti gli elementi che caratterizzano ancora oggi gli aratri che vediamo nei campi: la bure, il coltro, il vomere, il versoio. Nelle nostre campagne un buon indicatore del boom economico del dopoguerra è stata la profondità di aratura. Ogni anno aumentava ed ogni anno esigeva più cavalli, questa volta a vapore. Qual è oggi l'ultima tendenza in fatto di aratura? Quella di ridurre la profondità di lavoro con aratri definiti con vari aggettivi, come mini aratri e aratri ecologici, per effettuare, come la definiscono i francesi, un'aratura agronomica. Mi chiedete se serve ancora arare? Non risponderò a questa domanda, ma vi invito a seguire la prossima puntata di Vita nei Campi, dove vi parlerò dell'aratura e dei suoi effetti da un punto di vista particolare, quello del terreno, che comincia a diffidare di tanta tecnologia applicata. Come promesso nella scorsa puntata, Vladimiro Tulis, che ci cura la rubrica dei sommelier, parte oggi con una carrellata sui vini del Friuli Venezia Giulia. Ha scelto per partire la Ribolla Gialla Ferma, perché vedremo che ci saranno più puntate sulla ribolla. Iniziamo oggi il nostro spazio degustazione con la Ribolla Gialla. Abbiamo scelto questa varietà perché di un vino con questo nome abbiamo tracce documentali fin dal 1231. Parlo di vino e non di uva, perché l'ampelografia, la disciplina che studia e classifica le varietà della vite, muove i primi passi soltanto agli inizi del 1800. Potremmo dunque sostenere che il vino Ribolla Gialla di oggi, prodotto con l'uva omonima, ha avuto un antenato di pregio con lo stesso nome, prodotto da uve che però non conosciamo. Nel calice davanti a me ho un vino bianco in purezza, cioè da sole uve Ribolla Gialla, prodotto nella DOP Friuli Colli Orientali. La vendemmia è la 2022, un'annata calda e con pochissima pioggia, e ha 13,5 gradi di alcol. Lo sto guardando, il vino è pulito, non ha quindi elementi in sospensione, e ancora prima del colore balza agli occhi la sua luminosità. Il colore ha una doppia tonalità. Nel cuore, al centro del calice, appare paglierino, quasi a ricordare lo stelo del grano. Sul bordo, invece, tracce verdoline di clorofilla. Se porto il bicchiere al naso, come sto facendo, e inspiro, l'impatto è intenso e mostra una certa vivacità olfattiva. La memoria, almeno la mia, riconosce sentori di frutta e di fiori, biancospino e acacia si fondono con la pesca nettarina, la polpa di melone, alcune erbe aromatiche. Tutte insieme queste note lasciano una bella impressione di eleganza e pulizia. È il momento di assaggiarlo. Il vino è secco, non si percepisce zucchero. C'è una gradevole acidità che stimola la salivazione e il sorso nasconde bene l'alcol grazie a una gradevole sensazione, direi saporita, che è anche quella, dopo averlo inghiottito, che continua a farmi ricordare il vino. Questo è un vino di ottima qualità, che abbinerei con antipasti di pesce, pasta e fagioli, linguine con rucola e zucchine. Chi si diletta nell'arte conserviera deve sapere di potersi imbattere nel pericoloso botulino. Di cosa si tratta? Ci dice tutto Michele Urbano. L'estate è un tripudio di colori e sapori. In bella mostra gli ortaggi primeggiano e rallegrano la vista ai mercati, solleticando l'appetito nelle cucine. Nasce così la voglia di trattenere, o meglio conservare, per i rigori dell'inverno questa gaudenzia di sapori. Le orticole, ben condite e grigliate, trovano facilmente spazio, immerse in aromatici intingoli, nei vasi di vetro. Ma siamo certi di procedere correttamente nella preparazione di sottoaceto, sott'olio e salamoie? È difficile, se non impossibile, evitare completamente la contaminazione microbica degli alimenti in ambiente domestico e il botulismo alimentare può avere conseguenze molto gravi. Come i semi delle piante, le spore del batterio Clostridium botulinum possono esistere allo stato quiescente per molti anni, particolarmente resistenti al calore in ambiente anaerobico, umido e ricco di nutrimenti come in barattoli di vetro sigillati, le spore si potrebbero sviluppare in batteri attivi e produrre tossine. Detto ciò, non voglio in alcun modo scoraggiarvi, ma piuttosto fornirvi alcune utili informazioni. Lavorate in ambiente pulito, come ho ripetuto più spesso, è già un buon inizio. Pentole e stoviglie in acciaio sono le più idonee per la cottura di prodotti acidi. Per la conservazione utilizziamo contenitori in vetro non troppo capienti con capsule nuove. La distruzione termica delle spore non si può attuare in ambiente domestico, però si può bloccare lo sviluppo acidificando l'alimento oppure apportando in ricetta la giusta percentuale di sale e zucchero. Assicuriamoci che le verdure conservate siano completamente immerse nel liquido di governo. È importante sbollentare in acqua acidulata anche gli aromi e l'aglio, qualora siano freschi, in alternativa preferiteli essiccati e ben conservati. È bene sottoporre a trattamento termico, bastano 20 minuti, anche i sott'oli. Questa precauzione, sebbene non elimini le spore dei clostridi produttori di tossine botuliniche, elimina i microrganismi che potrebbero modificare il pH, rendendo idoneo al suo sviluppo. Prestate attenzione a scegliere la varietà di olio più indicata, gli sbalzi termici potrebbero alterarne il sapore. L'olio di oliva e di semi sono da preferire, evitate l'olio di noci, nocciole e colza. Il Solanum pseudocapsicum o ciliegia di Gerusalemme è la pianta che ci illustra oggi Alessandro Squizzato. Il Solanum pseudocapsicum è una pianta perenne sempreverde, appartenente alla famiglia delle solanacee, originaria del Sud America. Di piccole dimensioni, raggiunge un'altezza massima di 50 cm. Le sue foglie sono lanceolate e di colore verde scuro. Da giugno fino ad ottobre produce un'infinità di fiori bianchi a forma di stella, che durante l'inverno si tramutano in bacche, le quali man mano che maturano si coloreranno di una sfumatura che va dall'arancione al rosso. La loro durata va da giugno a marzo. Attenzione! Seppur assomigliano molto a dei pomodori o dei peperoncini, i frutti non sono commestibili e anzi risultano tossici. Limitiamoci perciò a godere del loro effetto estetico. Per fiorire in modo abbondante ha bisogno di molta luce diretta, seppur si adatti bene anche alla mezz'ombra. Sopporta bene gli ambienti freddi e le gelate invernali. È ottimo per decorare balconi e terrazzi in vasi, ciotole o balconette, ma si può piantare anche in giardino e dai uola. Si adatta a tutti i tipi di terriccio, a patto che siano ben drenati. Il Solanum pseudocapsicum è rustico, non ha bisogno di particolare cura, e cresce velocemente. Le irrigazioni per queste piante, però, devono essere frequenti soprattutto in estate, mentre nei periodi invernali andranno quasi sospese. Dal momento che cresce facilmente e rapidamente, in caso di coltivazione in vaso, dovremo concimare questa pianta settimanalmente, per farla prosperare al meglio. Visto le sue bacche rosse, è una pianta indicata anche durante le festività natalizie. Una volta che il Solanum perderà le bacche, potremo effettuare una potatura dei rami a circa 10-15 cm dalla base, favorendo così la nuova fioritura. È conosciuta anche come ciliegia di Gerusalemme, ma ad oggi non è ancora chiaro il motivo per cui nel mondo anglosassone venga così chiamata, non essendoci testimonianze passate. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,10 e 21,30 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,70 e 20,20, l'orzo tra 17,80 e 18,30. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 70 centesimi il quintale e il frumento è diminuito di 2,20 euro il quintale. Modesta l'attività all'ortofrutticolo di Udine, con prezzi in aumento. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero sono quotate da 2,80 a 3 euro il chilo, IVA esclusa. I finocchi da 2,60 a 3 euro. Le zucchine da 1,20 a 2,20. I cavoli da 2,50 a 3 euro. I peperoni gialli e rossi, i pomodori in grappolo da 2 a 2,50. Il ricchio rosso tondo da 2,60 a 2,80. Quello di Treviso precoce da 3 a 3,50. Le pere abate da 2,50 a 2,80, i meloni da 1,50 a 2,80, pesche e pesche noci da 1,80 a 2,70, susine da 1,1 a 60 e l'uva da 2 a 3 euro il chilo. L'attività della pesca in questo periodo è stata proficua solo però in laguna e costa, con prezzi stabili. Con lunedì prossimo riprenderà anche la pesca in alto mare. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 16 a 32 euro il chilo, IVA esclusa, le orate da 6 a 24, le sogliole da 13 a 30, i latterini da 10 a 12, i palombi da 5 a 10, mazzancolle di laguna da 20 a 22, i cefali da 2 a 7 euro. Del comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 52 e 55 centesimi il litro più premi qualità e IVA. La Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha stabilito in questi giorni il prezzo del prosciutto di San Daniele. Lo stagionato di 16 mesi viene quotato con osso fra 14 e 17,50 euro il chilo IVA esclusa, quello di sossato tra 18 e 21,50. Infine, ancora prezzi in leggero aumento nel comparto degli avi cunicoli. Il valore dei poli a terra oscilla da 1,38 a 1,42 euro il chilo IVA esclusa. Quello delle anatre da 3,15 a 3,25, i tacchini maschi da 1,70 a 1,72, le faraone da 3,25 a 3,33, i conigli oltre il chilo e mezzo da 2,11 a 2,17, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 21 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. In 10 giorni siamo passati dalle temperature massime record per settembre di 35 gradi in pianura alle massime di questi giorni che non arrivano a 20. La temperatura è scesa in media di oltre 10 gradi e gran parte di questo salto è dovuto al fronte freddo di giovedì scorso, quando si è avuto un po' di tutto in regione dal punto di vista meteo e in serata la neve è arrivata fino a 1000 metri circa sulle Alpi. La transizione tra una fine estate eccezionalmente calda e un autunno inoltrato è stato stridente e repentina, togliendoci per il momento il piacere di quelle giornate soleggiate con temperature massime sui 26-28 gradi che a settembre accontentano tutti dai monti al mare e sono decisamente favorevoli anche all'agricoltura, alle prese con il periodo più importante della raccolta. La depressione fredda che ci interessa da giorni si colmerà gradualmente e continuerà a far sentire i suoi effetti per un po', determinando variabilità, bora sulla costa e temperature sotto la norma da domani a mercoledì. In realtà la temperatura comincerà a risalire lentamente e le piogge saranno poco probabili, anche se qualche episodio non si può escludere. Probabilmente dopo il 20 il tempo sarà più stabile e le temperature torneranno nella norma con massime sui 25-26 gradi. Una situazione quindi che gradualmente ritornerà ad essere più normale e favorevole alle attività nei campi. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. La Santa Croce, pan e noce, ovvero per la Santa Croce, il 14 settembre, pane e noci. C'è la farina di frumento trebbiato a giugno e le prime noci sono mature. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita. Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.